I romanzi di Elisabeth von Arnim, di cui abbiamo molto parlato nella Scuola delle Donne, sono lame ghiacciate, che sezionano con precisione chirurgica la realtà femminile del suo tempo e ce la mostrano senza veli e senza ipocrisie. Le donne vittoriane, descritte dalla incredibile, bravissima cugina di Catherine Mansfield, non sono le eroine romantiche delle Bronte, sono le donne comuni. Quelle senza forza sufficiente per combattere il patriarcato dominatore, quelle che per un po' si salvano grazie al loro candore e semplicità, ma poi vengono reimpastoiate da un sistema troppo forte per essere sconfitto. Sono come la maggioranza di noi, che ancora stiamo provando a liberarci dal guinzaglio del mondo androcentrico senza esserci del tutto riuscite a causa delle mille astute modalità che esso ha di mantenere il controllo. Le donne descritte da Elizabeth sono tutte splendide, sia fisicamente che moralmente. Sono le donne vittoriane che ancora dovevano obbedienza ai mariti e diventavano loro proprietà nel momento esatto in cui smettevano di essere proprietà dei padri. I romanzi sono ovviamente delle storie pretesto per raccontare le condizioni della vita femminile in quel delicato periodo di passaggio e di lotta che porterà poi al voto e all'acquisizione di alcuni fondamentali diritti quali ereditare, possedere la propria dote, avere giurisdizione sui figli e una pensione di anzianità. Anne Bronte ci aveva dato nei suoi due unici romanzi all'inizio dell'Ottocento una descrizione giornalistica, si può dire, della vita delle donne vittoriane e delle loro difficoltà. Elisabeth von Arnim, nata 40 anni dopo e molto più longeva, ci offre in ogni suo romanzo una rara perla femminile, un cuore generoso e puro di donna che, conscia dell'ingiustizia e non più disposta a subirla, prova con tutte le sue forze a liberarsi. Ma mentre le sue protagoniste non ce la fanno, Elisabeth al contrario ci riuscì nella realtà e arrivò a vedere il Novecento, vivendo nella prima metà da donna libera ed emancipata fino all'ultimo dei suoi giorni. Di Elisabeth von Arnim, la nostra scuola ha in elenco anche un incantevole aprile e una classe a lei dedicata tenuta da me per la Scuola delle Donne in Cerchio il 26 aprile di quest'anno. Lascio i link in descrizione. La moglie del pastore, edito da Bollati Boringhieri, che qui vi proponiamo, ottimamente tradotto da Simona Garavelli e letto molto bene da Giorgia, è la storia di una donna che si sposa con innocenza e candore per scoprire poi un marito anche peggiore del padre, metodico in maniera patologica e convinto che il ruolo della donna sia esclusivamente quello di procreare. Elizabeth descrive in maniera sublime la paura crescente della protagonista di fronte al primo parto e la reazione anaffettiva e insensibile del marito. Ma non si creda che i libri di Elisabeth von Arnim siano drammatici, poiché il suo stile eccezionalmente ironico e leggero rende le storie godibili e i dialoghi e le osservazioni veramente divertenti, malgrado la loro drammaticità. Una penna in stato di grazia. Quando si comincia a leggerla non si riesce più a smettere. Per fortuna, in biblioteca ci sono quasi tutti i suoi romanzi, cosicché, oltre a quelli che proponiamo in audio, abbiamo potuto leggerne molti altri per la nostra personale formazione e li consigliamo tutti senza eccezione. I drammatici Vera e vi presento Sally, i divertenti Due gemelle in America e Una principessa in fuga, i meravigliosi autobiografici Il giardino di Elizabeth, Un'estate da sola, Elizabeth a Rügen, Uno chalet tutto per me, Storie di Christine. Le descrizioni degli stati d'animo e della psicologia delle e dei personaggi nelle più piccole sfaccettature, così simili a quelle della cugina Catherine Mansfield, nonché la meticolosa caratterizzazione storica e geografica, ne fanno dei capolavori assoluti. In un mondo non patriarcale, Elisabeth von Arnim sarebbe studiata a scuola. Da Devana, buon ascolto.